Hola Gringos, sono le 8:01 di secondi. Eccoci qua. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione di riferimento. La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Ogni giorno alla mattina ascolta rock and roll. Il grido di oggi è fraziollo ma non mollo a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici frazionati. Buongiorno dall'Ariele, Spadino, Roberto Fricantoni, Mister Trombetta, Isaac Rizzi e tutti quanti. Iniziamo la seconda ora di quest'oggi. Un breve commento, permettetelo, alla telefonata di Matte, il nostro chitarrista dei The Anger, tredicenni di riferimento di Firenze. Abbiamo citato una sala prove, in tanti mi scrivono. Mary scrive, si chiama Play Loud, ci vado anch'io. La sala prove si chiama Play Loud, ci vanno i miei amici, ci scrive Special K. E un altro, Anna da Firenze, si chiama Play Loud, i proprietari sono due ragazzi metalloni, miei amici. Allora fateglielo sapere, dai, facciamo sponsorizzazione pane, burro e rock and roll. E gli danno, fanno magari lo sconto ai The Anger, insomma, c'è la mano da pane, burro e rock and roll sopra, capito? Mentre l'altro commento arriva da Milano. E perché noi paghiamo 36 euro per la sala prove, porca vacca? Vado a suonare a Firenze anch'io, Val. Mentre tanti messaggi sono d'affetto, d'amore, per la mancanza della trasmissione di ieri, causa problema tecnico, c'è un messaggio su tutti che mi ha colpito. Lo recito, Spadino, me lo concedi? Ci provo? Perché così, per raggruppare tutti quelli che hanno scritto nella prima ora. Oh, questa è una sorta di preghierina, apocrifa ovviamente. O signore dei dischi e dell'elettricità, sì, lo so che qualche anno fa qualcuno che conduce il mio programma preferito ti ha pregato per entrare in classifica. Io non ho richieste così egoistiche, a me basta che fai funzionare la radio che amo. Sì, lo so, qualche volta ho smadonnato per come si sentiva, perché come sottofondo sentivo Cavallone e Sironi di R101, ma questa era prima di ieri, prima del vuoto cosmico. Ieri non si sentiva neanche 101 come sottofondo, e io ho pensato al peggio, che il portinaio o portiere impazzito avesse fatto una strage, che Mox avesse scelto di fondare un monastero buddista progressivo in via Locatelli. Giuro, da oggi non me la prenderò più con te. Pagherò le tasse sorridendo, e se mia moglie fa i capricci e mi si concede in modo bisestile, se i miei clienti mi umiliano, io accetterò tutto, ma ti prego, basta vuoto cosmico. Amen. A proposito di Mox, il brano di Easy Rider. Quest'oggi ci ha scelto i Queensryche. Take Hold of the Flame. Dobbiamo parlare di Chinotto io e voi, eh? Restate lì. Abbiamo fatto l'incontro ieri, dopo vi dico. ringraziamo Easy Rider nella persona di Mox Cristadoro per questa Queensryche, cioè per questo brano targato Queensryche. Take Hold of the Flame, via, via di acuti. Ricordo le coordinate velocemente anche per la seconda ora: 335-100-7777. Volevo salutare il mio capo che sta impazzendo in negozio mentre io vado a Londra a vedere il Milan, è abbastanza rock. Medio, medio, perché fai venire medaglia anche a noi. Un paio di strombazzate, spero ce n'erano altre, ho paura di perdere. Intanto Gio da Milano, orale di fisica e di mate, paratemi il culo, vi stimo. Anche noi, ho bisogno di voi, una bella strombazzata, parte orale dell'esame di chimica, me la fate? Pimpa da Genova, stai in una botte di ferro. Dovrei leggerne tantissimi altri, ma dovrei anche fare il punto della situazione per quanto riguarda la sponsorizzazione Chinotto. Voi soprattutto frazionati di quest'ora qui avete vissuto tutto in diretta, era partito tutto da uno scherzo telefonico. Questa nota ditta di Chinotto Italiano ci aveva dato un appuntamento per parlare della possibilità, insomma, di collaborare. Noi ci eravamo anche impegnati con il buon Camonchia, che ci aveva tenuto delle lezioni per preparare Ariel Frick all'incontro con un brand manager. Ieri pomeriggio io, Roberto Fricantoni e Daisa Crizzi, zainetti alla mano, ci siamo presentati. La signorina alla reception ci ha detto: scusate, la signora è dovuta andare via e l'appuntamento è annullato, vi richiama lei. Ha detto così. Un po' ci siamo rimasti male, ve lo devo confessare. Cioè, è stata scortese, poteva dircelo che annullava l'incontro. Ci siamo fatti tutta Milano per andare di là. Ragazzi, è andata. La vita è brutta, ma non l'ho inventata io. Citavo. Pretty women are walking with gorillas down my street. From my window I'm staring while my coffee goes cold. Look over there, where? There's a lady that I used to know. She's married now or engaged or something, so I'm told. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? 'Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Tonight's the night when I go to all the parties down my street. I wash my hair and I kid myself, I look real smooth. Look over there, where? There, here comes Jeannie with her new boyfriend. They say the looks don't count for much, so there goes your proof. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? 'Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Around here. But if Something going wrong around here. Something going wrong around here. Something going wrong around. Ah, l'Italia, l'Italia, che bel paese! Le belle donne! Ah, i bei piatti! Oh, la cucina italiana! Le ricette della nonna! Sa, me ne viene in mente una. Quale? Rivalutiamola. La grande frittata di cipolle! Una meravigliosa, piatto semplice ma indispensabile! Mi viene l'acquolina in bocca già a quest'ora, io mi sparerei una frittata di cipolle. Frittatone, proprio. Birre, rutto libero, assolutamente, come diceva sì. Grande Fantozzi. Il tutto per annunciare la notizia di quest'oggi che riguarda una gallina. Una gallina particolare, sì, però. Sì, sì, sì. Le lancio la sigla? Sì, grazie. Sigla. Vive in Messico la gallina che produce uova verdi. Ah, complimenti. Elvira Romero, una donna residente nel villaggio messicano di Santa Maria Huecatila, poco distante da Chuatitlán, sta diventando famosa grazie a Rabanita, una gallina in grado di deporre uova verdi. Il pennuto, stando a quanto dichiarato dalla donna e poi confermato da Raul Ortiz, segretario municipale della cittadina, produce uova diverse ma solo nell'aspetto. Al sapore, infatti, risulterebbero del tutto uguali alle altre, dunque squisite. Rabanita è oggi una gallina importante, una vera star, e come tale riceve numerosissime visite da parte dei curiosi che giungono anche da molto lontano. Le sue foto, infatti, sono state pubblicate dai più importanti quotidiani messicani e un'emittente televisiva ha persino inviato una troupe per realizzare un servizio apposta su di lei. Intanto in molti si domandano il perché di queste insolite covate, diversi ritengono si tratti di una gallina appartenente ad una specie simile alla araucana, allevata generalmente dalle popolazioni indigene del Cile e dell'Argentina. La gallina che mi fa l'uovo verde. Sa che è una mia teoria? Quale? Secondo me mangia troppi spinaci. La gallina, come braccio di ferro. Sì. Oppure una gallina leghista. Esatto, anche. Oppure una gallina che mangia quantità eccessive di cicoria. Dovremmo dargliela al senatore. Esatto. Senatore, piglia la gallina messicana. La gallina del senatore, la sempre il becco dur. Ottimo slogan, fantastico. Grazie. E ci guadagniamo il popolo leghista all'ascolto. Oh yeah, un altro passo in più verso il trionfo. Pare burrera che re, pare burrera che re. Mazza che figata sto programma, regà. So you run down to the safety of the town, but the panic on the streets of Carlisle, Dublin, Dundee, Humberside. I wonder to calma ragazzi, calma. Le teste calde ci abbiamo all'ascolto noi, io lo sapevo, Alla notizia che il noto produttore di Chinotto non ci ha nemmeno degnati di esporre la nostra posizione sul Chinotto, la risposta italiana alla Coca-Cola. Tantissimi sono i messaggi che è meglio se non leggo, vi dico solo questa, perché sono un po' di idee di quelle un po' così rock. Ma noi non ce ne frega, noi ci fa un baffo, perché tanto per diventare ricchi ci abbiamo la sciura Carla. Buona giornata Carla! Buona giornata a voi! Ma è uscito l'estratto? È uscito l'estratto a Genova! Oh, guarda che quei balubi degli ascoltatori non me l'ha detto nessuno, quindi secondo me non l'avevano giocato. Almeno se non l'hanno giocato. Sti stupidotti. È uscito il 18? Sì, a Genova. 18 a Genova. Ragazzi là fuori, poi vedete se le altre radio vi danno i numeri che escono, Noi ci abbiamo la Carla che è lì da che esce. Grande! Chiedimi se l'avevo giocato. L'hai giocato te? No. No, lo sapevo. Ma perché sono non sono abituato, devo con calma vedrai che ci arrivo anch'io, Carla. Sì, già è buono che ho capito cos'è il lotto, che è già un passo avanti. Senti, ti sei preoccupato? Non si viene ricchi, Come? No, non si viene ricchi, però qualcosa. No, ma noi dobbiamo vendere un po' così la cosa, Carla, lo facciamo. No, ma è vero. Allora, mettiamo un po' di fumo, sì. Tutti dicono, non si viene ricchi, però. Però. Io anche ieri sera mi sono preso 78 euro. Grande Carla, con quell'estratto lì? No, con altro che non c'è. E ho fatto la posizione. Cos'è la posizione? La posizione è prima, terza e quinta. Ieri sera è uscito in quinta, io ci ho messo un euro, ne ho preso 51. Guarda, non mi addentro nella cosa perché non ho capito. Sì, ma se voi fate come vi dico io. Esatto. Io sono pronto con carta e penna, però prima ti sei preoccupata ieri? Sì, ho detto, non ci sono più quelli là. Eri già pronta a telefonare a un'altra radio, di la verità. No. Solo con noi si fa, anche perché ti abbiamo costretto, quindi. Dovresti trovare un'altra radio che ti costringe, che No. Allora, carta e penna, per voi miscredenti, non si diventerà ricchi, ma Carla c'ha il numero che se non esce alla prima, dopo un po' esce, vai. Allora. Sì. Vi do la giocata, Milano-Napoli. Ok. 42. Ok, secco. Sì, l'estratto. Numero. Sì. Poi giocate 42-12. Sì. 42-21. Lo sto capendo il tuo metodo. Sto capendo il metodo, perché un numero lo tieni, l'estratto lo tieni anche negli ambi. Perché bene o male esce. Vai. Questi dove li giochiamo? Milano-Napoli. Anche gli ambi, ok. Sì. Chi non vuole fare i due ambi può fare 42, 21 e 12. Al posto di fare i due ambi fa il terno. 12, ok. Come da contratto non ti chiedo da dove saltano fuori questi numeri, perché non ci interessa. Sono numeri che gioco anch'io. Che gioca anche la Carla. Partiamo, sono numeri freschi di giornata, signore e signori. Questi sono freschi. No, mi piace fare un po' tipo quelli della televisione, Carla, capito? Certo. Sono veri questi numeri, li ha dati Carla! Dovremmo trovarti anche un nome d'arte, Carla. Adesso ci pensiamo, perché Shura Carla è bello. Però tipo, vabbè, ci ragioniamo, non sto a dirtelo se no ti arrabbi, lo so. Cosa mi metti su? Non so, un nome d'arte, quelli della televisione c'hanno nomi strani quelli lì. No, però no. Poi puzza un po' di mago, noi è una schifetta. Andiamo giù alla buona. Andiamo giù alla buona, brava Carla. Ci sentiamo. Una bergamasca. È un varesotto, la frittata è fatta. Ci sentiamo giovedì per vedere se li confermiamo o no, o domani per vedere se siamo diventati ricchi. Se domani non escono, si arriva giovedì. Giocarli almeno tre volte. Buona giornata, Carla. Anche a voi. Ciao. Tranquilla, che il giorno che ci spengono ti telefono io ad avvisarti, non ti preoccupare. Ciao. Miss. Se le domande non le sai, salle. È più che giusto, e cioè, in altri termini, sottotitolo, rispondi orsù al test attitudinale se vuoi avere la tessera di vero, autentico rocker. Titolo del test attitudinale di stamane è Orgoglio Patriottico. Sì, parliamo dell'Estasi dell'Oro di Ennio Morricone. Esattamente, il celeberrimo brano della colonna sonora del Buono, il Brutto e il Cattivo, il western capolavoro di Sergio Leone. L'Estasi dell'Oro, per intenderci, è il climax che accompagna la scena del cimitero, se la ricorda? Certo. La scena memorabile. Circolo. Dura 7 minuti senza dialoghi, se non gli sguardi dei protagonisti. Esatto. Un leone veramente, esatto, all'apice. La resa dei conti. Il brano in questione, per l'appunto L'Estasi dell'Oro, viene tutt'oggi utilizzato dai Metallica per introdurre i loro concerti, ma non sono stati i primi e i soli. Quale altra band utilizzò L'Estasi dell'Oro di Morricone come intro al loro show? Risposta numero 1, ipotesi A, i Ramones. Oppure? Risposta seconda, i Deep Purple. O infine? Ipotesi terza, i Rolling Stones. Chi usava L'Estasi dell'Oro di Morricone come intro? I Ramones, i Deep Purple o i Rolling Stones? La risposta esatta fra poco, e cioè la soluzione a poco dopo. Ehi Rugna, dimmi Frigno, se facciamo la band bisogna decidere cosa facciamo. Sì, è vero, dobbiamo darci dei ruoli. Io faccio il chitarrista cantante, ganga ganga ganga ganga, wow! Forte, forte, forte. Allora io cosa posso fare? Quasi quasi faccio il batterista, così spacco tutti i tamburi. Fammi sentire, Roya. Fighissimo. Ratones, ratototototones, tones, spacchiamo tutto. Ratototones, spacchiamo tutto. Spacchiamo tutto. Prossimamente, Frigo e Rogna fanno la band. Il gruppo.